un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo nascose per 3 mesi. Ma non potendolo più tenere nascosto, prese una cesta di papiro, la cosparse di bitume e pece, vi mise il bambino e lo pose nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino si appostò a distanza per sapere che cosa gli sarebbe successo. La figlia del faraone scese per prendere un bagno al fiume, mentre le sue ancelle se ne andavano lungo la sponda del fiume. Vide la cesta in mezzo al canneto e mandò la sua serva a prenderla. Aprì e vide dentro il bambino. Era un fanciullo che piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «Costui è un bambino ebreo». La sorella del bambino disse alla figlia del faraone: «Vado a chiamarti una donna che allatti tra le ebree, allatterà per te il bambino». Le disse la figlia del faraone: «Va». La giovane andò a chiamare la mamma del bambino. La figlia del faraone le disse: «Prendi questo bambino e allattalo per me, ti darò il tuo salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo portò alla figlia del faraone. Fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l'ho tirato dall'acqua». In quei giorni Mosè, cresciuto in età, uscì verso i suoi fratelli. Vide il loro peso. Vide pure un uomo egiziano colpire un uomo ebreo, uno dei suoi fratelli. Si voltò in qua e in là, vide che non c'era nessuno e colpì l'egiziano, nascondendolo poi nella sabbia. Uscì il secondo giorno ed ecco che vide 2 uomini ebrei che litigavano. Disse al cattivo: «Perché colpisci tuo fratello?» Disse: «Chi ti ha posto come capo e giudice su di noi? Vuoi forse uccidermi come hai ucciso l'egiziano?» Mosè ebbe paura e disse tra sé: «Certamente la cosa è risaputa». Il faraone sentì parlare di questa faccenda e cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì via dal faraone, si stabilì nel paese di Madian e sedette presso un pozzo. Un sacerdote di Madian aveva 7 figlie. Vennero ad attingere acqua e a riempire gli abbeveratoi per far bere il gregge paterno. Ma sopraggiunsero dei pastori e le scacciarono. Allora sorse Mosè e le salvò facendo bere il loro gregge. Esse vennero da Reuel, loro padre, che disse: «Perché tornate così presto oggi?» Dissero: «Un egiziano ci ha liberato dalla mano dei pastori, ha preso l'acqua per noi e ha dato da bere al gregge». Disse alle sue figlie: «Dov'è? Perché avete abbandonato quest'uomo? Chiamatelo e venga a mangiare». Mosè accettò di abitare con quell'uomo che gli diede in moglie Zippora, sua figlia. Costei partorì un figlio che Mosè chiamò Gerson, perché disse: «Sono stato ospite in un paese straniero». Frattanto, in quei lunghi giorni, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano per il lavoro, gridarono, e la loro invocazione di aiuto dal lavoro salì fino a Dio. Dio udì il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e se ne prese cura.